24 mattino di Alessandro Milan. Alle 7.31, buongiorno, eccoci cari ascoltatori in diretta fino alle 9 con 24 mattino. Nel nostro sondaggio di oggi, ebbene sì, parliamo di calcio. Ci siamo caduti anche noi, il calcio, gli stipendi che il ministro Calderoli vorrebbe ridurre. Basta, ingaggi, è tempo di tirare la cinghia, è tempo di fare sacrifici, è tempo della manovra, e allora anche il calcio si adegui. Mettereste un tetto stipendi al mondo del calcio? Questo vi chiediamo, radio24.it per votare bianco o nero. Ci trovate nell'home page, ne parleremo alle 8.30, e ora la lettura dei giornali. Infinity, autosportive che ispirano. Infinity, inspired performance. Vi presenta in primo piano. Martedì 8 giugno. L'apertura pressoché unanime è sulla vicenda delle pensioni, con l'Unione Europea che non fa sconti riguardo all'età delle pensioni delle donne del pubblico impiego. Pensioni, parità dal 2012, così è l'apertura del Sole 24 Ore, che oggi fa anche un'intervista al direttore dell'Agenzia delle Entrate, Befera, sull'evasione fiscale. Corriere della Sera, donne in pensione, niente sconti. Per Repubblica, i giovani in pensione a 70 anni sono gli effetti delle nuove norme. Per La Stampa, pensioni, il diktat dell'Europa, statali, donne in pensione a 65 anni per Il Messaggero. Tra l'altro, su tutte le prime pagine dei giornali troverete la foto di questo invece piccolo neonato, davvero ci ha fatto vivere ore di angoscia, il piccolo Luca. Devo dire che molti giornali, la gran parte dei giornali, quelli almeno dei quali non ho la cosiddetta ribattuta, raccontano la storia di questo bimbo, di questo neonato che è stato rubato, letteralmente rapito da una finta infermiera nell'ospedale di Nocera. Fortunatamente la vicenda ha avuto un lieto fine. Dopo qualche ora, proprio nella notte, è stato ritrovato a casa di questa finta di questa che si è una finta un'infermiera, in realtà pare sia un'infermiera vera al Cardarelli, però di Napoli, non lì a Nocera, e che ha rubato appunto questo neonato. Ripeto, trovate su tutti i giornali la vicenda, che però sui giornali è raccontata, ma è fortunatamente passata. Tutti infatti raccontano nato da 3 ore, rapito in ospedale dalla finta infermiera, rapito dalla finta infermiera. Sì, effettivamente il Corriere titola rubato dalla finta infermiera, insomma, come se fosse un oggetto, rapito è meglio. Però fortunatamente questa vicenda un po' è sorpassata dalla cronaca che è avvenuta nella notte. Come detto, le pensioni. Dal 2012 pensioni rosa a 65 anni, leggo a pagina 3 del Sole 24 Ore, Adriana Cerretelli. Il ministro del lavoro Sacconi ha provato a insistere con l'Unione Europea, ma non c'è stato niente da fare. Non c'è aria di sconti. Il concetto di gradualità viene rifiutato, e dunque dal 1 gennaio 2012, questo è il termine ritenuto massimo accettabile dall'Unione Europea, se passiamo quel termine e non abbiamo oltre quel termine parificato a 65 anni la pensione anche tra donne e uomini nel pubblico impiego, scatteranno le sanzioni che, secondo Adriana Cerretelli, secondo un calcolo, sarebbero già di 19 milioni di euro se non ci adeguassimo. Per favore, risparmiamo almeno questi 19 milioni di euro, che è tempo di tirare la cinghia, come direbbe Calderoli. E allora la Commissione Europea non ha concesso sconti all'Italia. Tra l'altro ci sono varie interviste su questo sui vari giornali, per esempio ne cito un paio. Sono entrambi senatori del Partito Democratico, il giuslavorista Pietro Ichino, senatore del PD. Io faccio anche una proposta shock. Detto che Ichino dice sì, assolutamente è giusto parificare, aggiungo anche che per ogni euro risparmiato da questa parificazione su quel terreno dovremo reinvestire questi soldi in misure che favoriscano l'aumento dell'occupazione femminile. Ma eccola qui, io faccio anche una proposta shock, dice Ichino. Oltre alle classiche di ricette di sinistra, come l'aumento di servizi alle famiglie con figli o con persone non autosufficienti, eccola la misura shock di tipo fiscale. Una riduzione drastica dell'aliquota IRPEF sul reddito di lavoro femminile. Il vantaggio si ripartirà automaticamente tra le due parti, portando a un aumento della domanda e dell'offerta di lavoro femminile. Perché, dice Ichino, bisogna aumentare l'offerta di lavoro femminile, bisogna aumentare il numero delle donne che lavorano. Ed ecco quindi questa proposta shock. Come farlo? Anche riducendo l'aliquota IRPEF sul reddito di lavoro femminile. Tra l'altro, dice Chino, un'azione positiva avrebbe questo e non incoccia con l'ordinamento comunitario, perché verrebbe utilizzata solamente per il periodo di raggiungere un obiettivo. Quindi un'azione positiva volta a disattivare un meccanismo sistemico di discriminazione sul lavoro tra uomo e donna, e destinata a ridursi fino a cessare col raggiungimento dell'obiettivo. Dunque anche l'ordinamento comunitario non vieta affatto questa cosa. Tra l'altro anche Enrico Letta, invece, sempre del Partito Democratico, dice: È giusto così. Detto questo, critica molto la manovra. Sulle regole sento puzza di condono. Attenzione, bisogna ora tassare gli speculatori, in un'intervista a Repubblica. Tra l'altro però dice: forse saremo in piazza per lo sciopero, non di certo saremo in piazza per lo sciopero con i giudici. Lo sciopero dei giudici non lo condividiamo. Questo dice Enrico Letta del Partito Democratico. Insomma, è il momento dell'austerity. Anche a Berlino, Beda Romano, sul Sole 24 Ore, spiega che il governo di Angela Merkel ha messo a punto un piano di austerity da 80 miliardi di euro. Dovremo risparmiare 80 miliardi di euro da qui al 2014. È inutile, bisogna tirare la cinghia. Infatti Libero oggi se la prende con chi? Vediamo un po'. Confini, tanto per cambiare. Fini ci prende in giro. E l'apertura di Libero? Su che cosa? Sugli onorevoli stipendi. Ma quando taglia la riduzione del 10% della paga dei parlamentari annunciata alla Camera, però nessuno si muove. Per la verità anche al Senato, ma insomma fa più comodo per Libero dire soprattutto alla Camera, per attaccare Fini. Da 10 giorni studiano, scrive Franco Bechis. Oh, come studiano! Deputati e senatori si riuniscono in continuazione per trovare qualche marchingegno complicatissimo per prendere una decisione semplicissima: tagliare i loro stipendi. Si sono riuniti una volta da soli, ciascuno nel suo parlamentino. Si sono riuniti una volta i deputati con Fini, una volta i senatori con Schifani. Si sono riuniti una volta tutti insieme, si spremono le meningi, ma poi quando arriva il momento fatidico, quello in cui zac! Basterebbe calare giù un paio di forbici, ci ripensano. Meglio studiare ancora un po'. E vabbè, i tempi della politica sono anche questi, però effettivamente Libero sforbiceremo, tutti d'accordo, purché sia domani. I nostri soldi, questo ce l'hanno contro i politici. Io l'ho detto, è ripartito da un po' il vento contro la casta, è ripartito e spira più forte che mai. E poi sui tagli c'è la vicenda del calcio. Ancora oggi ci sono ripercussioni della proposta di Calderoli. Intanto la Padania, calcio, sacrifici in campo, mette a pagina 2 e 3 tutti gli stipendi. Mourinho, 11 milioni. Vabbè, ma è andato all'estero adesso. Eto'o, 10 milioni e mezzo. Ronaldinho, 7 milioni e mezzo. Buffon, 5 milioni e mezzo. Vieira, 5 milioni e mezzo. Totti, 5 milioni e mezzo. E così via, no, scende. Maxi stipendi, riportiamoli sulla terra. C'è la foto di Calderoli. C'è chi dice che è molto demagogica la cosa, per esempio sempre sul Libero. I paperoni del calcio sono più tassati dei politici. Parla Giovanni Palazzi, presidente di Stage Up, società di consulenza che si occupa di economia e sport, e dice: ma non lo sanno quelli della Lega che con questi stipendi vuol dire che pagano tante tasse proprio a Tremonti? E poi le società calcistiche sono regolate dal diritto privato, mettere il calmiere avrebbe il sapore dell'Unione Sovietica. C'è anche il ministro La Russa che oggi risponde a Calderoli. Ieri Calderoli aveva fatto un'intervista dicendo: La Russa già subito aveva detto si occupi della Padania, che peraltro è campione del mondo delle nazionali che non hanno una nazione, ha battuto il Kurdistan a Malta nell'ultima edizione, campione del mondo la Padania. Spesso la Lega ci prende con questa tecnica di spararla per prima e spararla più grossa, ma stavolta no, quella del mio amico Calderoli è proprio una sciocchezza. Parla La Russa, fa un'intervista a Lorenzo Salvia sul Corriere della Sera e dice: no, assolutamente no. Visto che non parliamo di calcio, so che Calderoli è tifoso della Ferrari, perché non tagliare lo stipendio dei piloti di Formula 1 o quello degli attori o degli anchorman? Allora dice la russa. Allora secondo lei è solo demagogia? No, ma eccolo qui il punto dove arriva la russa. Come io dicevo ieri, è solo una questione di tifo. Sentite la russa. Questa di Calderoli era la premessa che gli serviva per raggiungere il suo obiettivo piuttosto meschinello, e sarebbe a dire attaccare l'Inter che vince e il suo presidente. Ecco perché il ministro La Russa, io l'ho detto già ieri, perché è uno sfegatato interista, si è arrabbiato. È una follia, sarebbe come impedire alle modelle di sfilare solo perché la moda italiana è famosa nel mondo. E poi che bisogna fare? Bisogna scrivere una legge per non far vincere l'Inter? Dice la russa anche abbastanza adombrato. E poi Moratti, gli ultimi acquisti li ha fatti a parametro zero, oppure reinvestendo i soldi incassati con la vendita di Ibrahimovic. La Lega è meschinella. Mentre la lettura interessante è quella del secolo XIX, con Francesco Bonazzi a pagina 3, Calderoli, laborioso ministro al diversivo. Una lettura molto interessante. Dice, guardate che l'uscita di Calderoli, e analizza tutte le varie uscite di Calderoli degli ultimi anni, davvero interessante questa lettura, guarda caso sono venute sempre nel giorno in cui c'è un qualcosa che potrebbe mettere in difficoltà il governo, e lui con queste sparate si guadagna i titoli dei giornali e fa il ministro al diversivo. Altro che piazzate, scrive Francesco Bonazzi, è geniale in queste sue uscite Calderoli. Volete un esempio? 19 agosto del 2009, c'è un barcone di eritrei alla deriva, le accuse degli immigrati, l'Italia ci ha lasciato morire, Calderoli cosa se ne esce? Riapriamo le case chiuse. E infatti il giorno dopo molti titolano non sulla tragedia del mare ma sulle case chiuse. Oppure c'è la crisi economica, c'è Berlusconi, le intercettazioni di Trani, eccetera, che fa lui? Fa il bel... il piromane, incendia, no? Quel falò di tutte le leggi il 24 marzo scorso, incendia tutte le leggi e si guadagna le foto con lui che incendia tutte le leggi. Oppure esplode la vicenda dei grandi appalti legati al G8 e lo stesso giorno Calderoli che dice taglieremo lo stipendio ai ministri e ai parlamentari, e infatti il giorno dopo molti titolano su questo. Allora sostanzialmente eccola qui la strategia del contropiede. Calderoli, geniale, riesce sempre, col governo in affanno, scrive il secolo XIX, a fare le sparate che guadagnano i titoli. I tagli, c'è anche molto, l'unità si concentra sui tagli alla cultura, c'è uno scamarcio che probabilmente abbandonando per un attimo la Francia, dove vive spesso, ci vuole lo sciopero a oltranza. Del resto anche persone esperte misurate come la Vermüller ha avuto parole dure contro questo DDL. La Vermüller, parole misurate, insomma non le ha molte usate, abbiamo sentito anche qui alla Zanzara, ha detto a Tremonti tagliamogli la testa o almeno le palle. Questo l'ha detto Lina Vermüller, non è che me lo sogno, tagliamogli le palle a Tremonti. Questo ha detto la Vermüller, che per scamarcio è una tipa misurata, e ha detto vorrei che si facesse come negli Stati Uniti, sciopero a oltranza. Questo Riccardo Scamarcio, ci vuole lo sciopero a oltranza, in un'intervista, pagina 13 dell'Unità. Riguardo a tagli, allora questa è una notizia francobollo che voglio darvi proprio prima di dare il traffico. Io non voglio crederci, a Verona il sindaco Tosi è stato multato. Andava in autostrada a quasi 190 km orari di media, perché il 22 febbraio scorso la sua Audi A6, utilizzata dallo staff del sindaco, stava percorrendo l'A4, il sistema Tutor ha rilevato l'infrazione. Ora, Tosi, leggo dal Corriere, ha presentato richiesta di revoca del provvedimento perché le auto blu sono esentate se la velocità è superata per ragioni di sicurezza o di istituto. Tosi multato, andava a 190 all'ora, ma ha fatto ricorso perché era sull'auto blu. In primo piano. Santoro alla Rai, torno a settembre, mobbing contro di me. Paginate e paginate, per me è abbastanza incredibile, sul caso Santoro. Oggi tra l'altro è il giorno in cui ci saranno la presentazione dei palinsesti, il direttore generale della RAI, Masi, tra l'altro lo gela, vale l'intesa già votata, cioè che cosa c'è? Santoro ieri ha fatto una lunga conferenza monologo, continuerò ad anno zero dopo un anno di violenze e mobbing, violenze e mobbing. Mi mobbizzano anche per Libero, Mister 17 milioni piange e resta. La rabbia del direttore generale però è questa, spiegata da Repubblica, pagina 11, questa partita non è ancora chiusa, cioè Masi avrebbe detto la mia battaglia non finisce qui, con Santoro ho un contratto firmato, vale a dire quello dell'accordo, che insomma vale per quel che riguarda Masi, o meglio non è detto insomma che quindi torni, ha fatto un preaccordo, lo voleva Santoro, cioè voleva uscire dalla RAI, ora quell'accordo potrebbe rimanere. Comunque oggi c'è la presentazione dei palinsesti, vincono nettamente Iena. Pagina 3 della Stampa, mobbing, pagherei per essere mobbizzato come Santoro. Oppure anche sul Riformista Francesco D'Eramo fa il suo corsivo a pagina, in prima pagina, Michele Santoro prepara una nuova trasmissione, Mobbing Dick. Ma il tema Rai è trattato con la notizia più interessante sul Fatto a pagina 3. Eccolo qui, il cavallo delle nebbie. A dire la verità è anche l'apertura di prima pagina, 1.300.000.000. Questa cifra è il totale dei compensi segreti della RAI che viene spiegata dal Fatto. 903 milioni per i salari, 268 milioni per appalti esterni. È Carlo Tecce che ne parla, tutti chiedono trasparenza, nessuno accende la luce, proclami, la RAI pubblichi gli stipendi dei suoi dipendenti, sarà successo ieri la settimana scorsa? Acqua, era l'estate del 97, indignazione per un'inchiesta del Mondo, 13 anni di parole a bocca aperta e portafogli rigorosamente chiusi e tra un decennio e l'altro la diffusione di case di produzione, la RAI spende, eccola qui la cifra, 1,31 miliardi di euro per riempire i palinsesti, 903 milioni per il personale dipendente, relativi oneri fiscali e previdenziali, 139 per i contratti di esterni, Giovanni Floris, Bruno Vespa, eccetera, 268 per sede televisive e appalti. Ecco qui, i compensi segreti RAI per il Fatto Quotidiano sono 1,3 miliardi gestiti senza controllo. C'è ancora molto della scuola, perché si avvicina la maturità, c'è tutta la polemica sul tempo pieno che oggi trova uno spazio di una pagina su Repubblica e poi c'è, eccolo qui per esempio, il primo liceo, questo è un altro tema che certamente da qui ai prossimi giorni esploderà, vale a dire l'accesso alla maturità, perché da quest'anno, secondo quanto applicato voluto dal ministro Gelmini, da quest'anno sono ammessi alla maturità quelli che hanno tutti 6, basta un 5 e non si è ammessa alla maturità. Il liceo che non segue la Gelmini ha la maturità chi ha meno di 6. Sono i professori del liceo scientifico Vittorio Veneto di Milano, i più veloci, che hanno già pubblicato i tabelloni di ammissione alla maturità. Ecco qui il preside, Michele D'Elia. Non abbiamo tagliato nessuno. Tutti ammessi con i 6, anche chi aveva qualche 5. Ma come? Siamo stati equilibrati, dice il preside D'Elia, ovviamente in maniera ironica, perché parla di norma inapplicabile. Come avremmo potuto non ammettere un ragazzo per colpa di una sola insufficienza? Significa che avete alzato i voti? Certo, certo che lo abbiamo fatto nel consiglio di classe, abbiamo fatto questo, è nelle nostre possibilità. E al che gli si dice, ma scusi, è il 6 politico? Avete restituito, reinserito il 6 politico di 68iana memoria? Preferirei non definirlo così, piuttosto la chiamerei, attenzione, attenta valutazione del profitto di ciascuno studente senza penalizzarlo a tutti i costi. Questo è il preside del liceo Vittorio Veneto Scientifico a Milano. Chiudo la segnalazione conclusiva è questa, dico solo, non c'è tempo per leggere, c'è una bella inchiesta sull'influenza A, vaccini, il conto italiano, la stangata da 100 milioni sulla Stampa, due pagine con un'intervista anche al ministro della salute Fazio che dice rifarei tutto, l'ombra della truffa sui vaccini per l'influenza A, la chiusura è questa, dal secolo XIX lo yacht di Briatore destinato a scopi sociali. Oh, è stato sequestrato lo yacht di Briatore, sappiamo, con tante polemiche, una intervista poi smentita da Gregorace sul figlio Nathan Falco, al quale mancherebbe lo yacht, con la Gregorace tutta arrabbiata, non ho mai detto una castronata del genere. Ebbene, che succede? Che ne è dello yacht di Briatore che è stato sequestrato? È a disposizione ovviamente dell'Agenzia delle Dogane. Finirà a breve nelle mani dell'Agenzia delle Dogane. Potrà essere noleggiata a enti pubblici, forze dell'ordine, comprese, sempre per scopi no profit. Bisognerà chiedere entro 40 giorni al PM, gli enti interessati, si farà richiesta. Se succede che nessuno lo vuole, potrà essere anche demolito lo yacht di Briatore. Chissà quanti italiani così tronfi diranno: "Ale, demolito lo yacht di Briatore". Ma la notizia in queste righe è questa: nel frattempo il mantenimento in esercizio del Force Blue, il nome dello yacht, è a carico delle casse pubbliche. Cari ascoltatori, tutti noi per il momento stiamo mantenendo lo yacht di Flavio Briatore. Allegria. Allora, votate il sondaggio sul calcio, i compensi, il tetto ai compensi del calcio, lo vorreste? Su Radio24.it. Eccoci, 8 e 18 minuti, Deborah Rosciani. L'efficienza energetica e ambientale in azione. Cofeli, gruppo GDF Suez. Vi presenta... Soldi e dintorni. Eccoci qua, Deborah. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Contenta? Ma non c'è male, dai. Vabbè, lo diciamo. Oggi ne è... No, va. Andiamo avanti con soldi e dintorni. Il genetliaco. Ma santo cielo. Ma se sono a malapena adolescente. È il compleanno. Sì, vabbè, la popolazione mondiale non interessa questo dettaglio. Va bene. Parliamo di temi seri. Grazie. No. Parliamo di un tema abbastanza delicato. Definiamolo mala sanità, poi però naturalmente faremo tutte le precisazioni del caso questa mattina e non vogliamo certo sollevare un tema che già Alessandro Milan con il suo bianco e nero utilizza a volte per surriscaldare il dibattito e l'ambiente. Allora, tra l'altro, di questo tema ci piace parlare proprio mentre su tutti i giornali compare la notizia che ieri ha scosso tutta Italia, quella notizia che si riferisce alla scomparsa dall'ospedale di Nocera Inferiore del neonato di poche ore, poi fortunatamente ritrovato a casa della donna che lo aveva sottratto a sua mamma. Chiaramente oggi non vogliamo identificare questo caso come caso di malasanità, ma magari all'ospite di stamattina... poi vi spiegheremo anche il motivo per cui l'abbiamo chiamato, il tema preciso, e chiederemo un commento su questo episodio che per fortuna è finito bene. Io intanto ne approfitto per salutarlo. Buongiorno all'avvocato Paolo Giugioli, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano. Avvocato, buongiorno. Buongiorno. Fosse un avvocato di Napoli, come commenterebbe questo episodio, avvocato? Devo dire che io ho letto qualche cosina questa mattina, mi sembra una cosa estremamente strana, nel senso che le telecamere come al solito non funzionano, arriva lì una persona che viene scambiata per un'infermiera in presenza di un'altra infermiera che era lì presente e l'operazione sembra una cosa priva di senso, quantomeno a questo momento noi non sappiamo per quale motivo sia stata fatta e quali erano le intenzioni della persona. Certamente è una cosa molto grave, insomma, una cosa che viene fatta in un luogo dopo 3 ore che questo bambino era nato. E infatti sono colpito, insomma. Sono padre di 3 figli e pensare che una cosa di questo genere possa succedere in un ospedale mi sembra una cosa assurda. E infatti il dito è particolarmente puntato su queste telecamere di videosorveglianza che non funzionavano, ma insomma poi tutto l'episodio verrà ricostruito. L'importante è che la famiglia adesso sia più serena con il bambino che è tornato dove doveva tornare. Infatti, avvocato, allora noi invece questa mattina l'abbiamo chiamata per un'altra iniziativa, perché tra poche ore l'Ordine degli Avvocati di Milano firma una convenzione con l'Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Milano, una convenzione che prevede il miglioramento del servizio di conciliazione per il risarcimento danni da responsabilità medica. Come siete arrivati a questo accordo e a che cosa servirà soprattutto? Perché è chiaro che non tutte le situazioni di malasanità poi potranno essere risolte a questo tavolo, quindi quali casi sarete disposti a gestire, trattare, ad esaminare? Ecco, la situazione si è evoluta in senso positivo per quanto riguarda questo nostro protocollo che noi dovremmo firmare questa mattina a mezzogiorno, per l'entrata in vigore, come lei sa, del il decreto legislativo che non fa altro che attuare un articolo della legge del 18 giugno 2009 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che una legge dello Stato che è entrata in vigore il 20 marzo, che è applicazione di quella legge di cui parlavo, questo decreto legislativo che è applicazione di una legge del 2009, non fa altro che indicare e dire che alcune materie che vengono trattate dai tribunali, ovviamente è un'operazione fatta in senso deflattivo delle materie giuridiche che vengono trattate attraverso le cause normali, una mediazione da parte di alcuni soggetti specialisti che portano alla conciliazione, cioè prima ancora di poter fare la causa davanti a Infatti tribunale. L'abbiamo detto più volte, diventerà obbligatorio. Abbiamo pochi minuti, avvocato, vorrei proprio capire concretamente in questo settore come funzionerà qui a Milano e provincia, e poi se sarà possibile estenderla anche altrove. No, a Milano e in provincia noi lo stiamo facendo in questo momento con l'ordine dei medici, lo stiamo facendo anche con altre categorie e le prossime saranno i geometri e altre cose di questo genere, e tenteremo di far sì che questa mediazione per la conciliazione diminuisca il numero delle pratiche sulle quali c'è l'obbligatorietà, perché questo determinerebbe alcune cose che secondo i nostri studiosi e anche sottoscritto sembrerebbero incostituzionali. Ecco, però, avvocato, il danno provocato da un errore in qualche maniera riconducibile ad una responsabilità medica è un ambito estremamente delicato. Quindi io credo che la cosa in questione generale, per quanto riguarda ovviamente la questione relativa ai medici, è il modo per cercare di raggiungere un accordo senza quella situazione di carattere mediatico che tutti i giorni vediamo sui giornali, che il medico sbaglia, quest'altro sbaglia, eccetera. Noi cerchiamo di raggiungere degli accordi per ovviare a cause che durano decenni per responsabilità medica, e queste cose che noi conosciamo perfettamente perché siamo noi avvocati che poi fanno causa a questi medici. Certo, come si attiverà la conciliazione in questo ambito? Perché, come torna a ribadire, è molto delicato. Quindi, per esempio, non lo so, un odontoiatra fissa una dentiera sbagliata ad un cliente e questo naturalmente si ritiene danneggiato. Quindi noi non faremo altro che viene fatta una domanda da parte del cittadino che ha avuto questo problema, la fa davanti al medico, la fa davanti alla nostra organizzazione che stiamo preparando per la obbligatorietà del febbraio del 2010, e potremmo prenderla in considerazione con tecnici da noi istruiti, che sono i mediatori, i quali propongono una conciliazione sulla base di quello che hanno potuto studiare dopo aver parlato con le parti. Se si raggiunge la conciliazione, la causa non si va più, ma saranno modi abbastanza importanti per raggiungere la conciliazione. Perché? Perché se uno fa poi la causa dopo aver fatto la conciliazione, dopo aver avuto la materia in conciliazione, e questa causa comporta di avvicinarsi alla conciliazione, colui il quale fa la causa, cioè ai termini che erano stati dati nella conciliazione, pur essendo vittorioso dovrebbe pagare le spese. Ecco. Quindi è un modo per cercare di ovviare all'inconveniente di fare una causa dietro l'altro. Avvocato, 10 secondi, poi devo ridare la linea ad Alessandro Milan. Ci sarà un limite economico anche a queste cause? Le conciliazioni non hanno limite economico per quanto riguarda la nostra legislazione, la legislazione attualmente in vigore. Ci sono materie, questa è una di quelle materie che devono essere regolate dalla mediazione per la conciliazione. Certo che se la pratica è colossale, c'è qualche morto o qualche cosa di questo genere, la certo, mediazione ci si sposta in altri ambiti. Avvocato Giugioli, grazie. Tra l'altro la invito a leggere questa mattina di un altro caso che compare su molti siti internet e me l'ha segnalato Alessandro Milan, in Viale Monza, Milano. Chiude studio dentistico, clienti truffati. Io non so quanto questo studio dentistico potrà conciliare chissà che cosa, non essendoci più. Quelle cose lì non sono più questioni di carattere mediatorio, ma bensì questioni di carattere personale. Grazie, grazie Avvocato Giugioli, buona giornata. Alessandro, scappo via, nuova puntata oggi dei Tango Bond alle 12 a Salvadanaio. Buona giornata. I Tango Bond, noi parliamo dei tetti agli stipendi nel mondo del calcio. Il ministro Calderoli ha detto calcio, anche il calcio deve tirare la cinghia. Alle 8.33 minuti, allora parliamo di calcio nel sondaggio di oggi. È il giorno in cui la nazionale italiana parte per il Sudafrica. Forza ragazzi, dai che ce la facciamo, chissà, siamo tutti con voi intanto, però il tema è quello degli ingaggi, gli ingaggi, i soldi e il mondo del calcio e la manovra. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. E allora, oggi più che mai nella sigla la voce di Diego Armando Maradona ci sta tutta. E allora, vabbè, il ministro Calderoli ha detto anche il calcio tiri la cinghia. Oggi la Padania mette i maxi stipendi del mondo del calcio partendo da Mourinho, che però adesso è in capo al Real Madrid, e poi Eto'o 10,5 milioni, Ronaldinho 7,5 milioni, Buffon, Vieira, Totti, Pirlo. Maxi stipendi del calcio, riportiamoli sulla terra. Matteo Salvini, buongiorno. Buongiorno a voi. Eurodeputato della Lega Nord. Ma insomma, ma anche oggi Libero dice: ma come? Ma Calderoli non sa che le società calcistiche sono regolate dal diritto privato, insomma, sono rapporti tra privati. Poi Abete della Federcalcio ha detto che i premi, nel caso e tocchiamo tutti ferro di vittoria, verrebbero pagati dalla FIFA, cioè non è che noi italiani paghiamo i calciatori. Insomma, che butade è, un po' demagogica. È un momento in cui anche i simboli sono importanti, in cui tanti assessori, presidenti, consiglieri comunali, sindaci della Lega rinunciano alle auto di servizio. Non sono risparmi di milioni di euro, però è un segnale di risparmio di responsabilità. E quindi provare anche a cambiare le regole. Io vi sto parlando dall'aeroporto di Bruxelles. Provare a riportare un tetto al numero degli stranieri in campo, provare ad alzare la tassazione per alcune prestazioni sportive, provare a far pagare alla società sportiva italiana la gestione dell'ordine pubblico, che è quello che accade in buona parte d'Europa. Ma queste sono cose diverse, cioè tassare di più gli sportivi, perché altri dicono se guadagnano così tanto danno tutti i soldi a Tremonti, cioè alle casse dello Stato, in tasse. Beh, no? Insomma, io penso che stipendi di 5, 6, 7, 8, 10 milioni di euro siano indegni e siano immorali. Capisco che sia il mercato privato, capisco che così sia la legge, capisco che si possa anche discutere di un aumento della tassazione per un certo tipo di prestazioni, e sorrido quando sento le reazioni sdegnate da Buffon, da Bete, a De Rossi, di gente che guadagna in questa settimana quello che un lavoratore normale guadagna in qualche anno. Quindi è un segnale, capisco benissimo, non è ovviamente aumentando le tasse a Buffon o a Cannavaro che si salvano le sorti del paese, ma se ciascuno ci mette del suo, probabilmente è meglio per tutti. Quindi anche loro. Vediamo, io non so se è sdegnato, certo è uno che ha la lingua tagliente, l'abbiamo chiamato per questo, è Renzo Ulivieri, buongiorno. Presidente dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, ma uno che ha allenato insomma tantissime squadre, Perugia, Sampdoria, Bologna, Parma, Regina, ma ne ricordo solo alcune. Ulivieri, lei cos'è? È sdegnato oppure la sua lingua da toscanaccio alla fa sorridere o dire che? Ma io, come ho detto ieri, io sono d'accordo con Calderoli e sono d'accordo anche con quanto ha detto Salvini, quindi il contraddittorio non ci sarebbe neanche, perché da che considerazione è partito Calderoli? I calciatori della nazionale guadagnano molto, in un momento di difficoltà contribuiscono in misura maggiore. Il discorso a me sembra che non faccia una piega, però credo che vada capito anche il senso delle sue parole e vada allargato, e credo che sia questo, a meno che non sia un discorso demagogico, che non voglio pensare. Nei momenti di difficoltà, nei momenti di crisi, Calderoli ha detto questo: ci sono persone alle quali, ma anche Sensini, alle quali l'acqua arriva alla pancia, ci sono persone alle quali l'acqua arriva al petto, ci sono persone alle quali l'acqua arriva alla bocca. Andando giù ci sono persone alle quali l'acqua arriva alle ginocchia e persone alle quali l'acqua arriva alle caviglie. I calciatori, i calciatori fanno parte di coloro ai quali i calciatori delle nazionali, l'acqua arriva alle caviglie. E quindi a me sembra un discorso giustissimo nelle intenzioni, e quindi sono d'accordissimo, e l'ho detto anche ieri, dove secondo me non si può essere d'accordo è nel metodo. Voglio dire, un politico, una della maggioranza, un ministro in special modo, non è che va a fare la questua, ha gli strumenti a che queste cose si realizzino, e quindi se non si può parlare così, fare discorsi un po' dal bar, si fanno delle norme per le quali il carico delle difficoltà va ad aggravare su quelle persone alle quali l'acqua arriva alle caviglie. Lei l'ha visto e un ci po'. Ci sono i calciatori, ma ci sono tutti coloro ai quali l'acqua arriva alle caviglie e contribuiscono di più. A me, se il discorso quindi anche, questo, anche i politici dice, perché lei ha detto in generale guardi, Salvini ha parlato di aumentare le tasse per i calciatori, però vuol dire aumentare le tasse per coloro ai quali l'acqua è alle caviglie. Io sono d'accordo, lo facciano. Io intanto voglio salutare anche ci ascolta sempre un leghista, oggi siamo Radio Padania, Roberto Malaspina, buongiorno. Sarà contento Matteo Salvini, che è anche direttore di Radio Padania, consigliere comunale a Villa Franca in Lunigiana per la Lega Nord. Lei che ha combinato? Addirittura ha messo su carta la proposta di Calderoli, cioè che ha fatto? Niente, io mi sono sentito di sostenere, appoggiare la proposta del ministro Calderoli, che mi sembra una proposta forte, forse anche un po' provocatoria, però intelligente ed efficace, e ho proposto di dare sostegno appunto a questa proposta con una raccolta firme popolare, una specie di petizione popolare per vedere come la pensa il popolo. La Lega. La petizione popolare, ma dove? Nel suo comune, nella regione? Nel suo comune, dove? Intanto mi auguro che il ministro Calderoli sia d'accordo, quindi sto aspettando da lui l'assenso, e anche l'onorevole Salvini mi potrà confortare in questo senso. L'assenso per partire con questa consultazione popolare, che può partire dal nostro comune, da Villa Franca in Lunigiana, nella nostra provincia, Massa Carrara, e che potrebbe estendersi su tutto il territorio nazionale. Io credo che il sentimento che sto provando io, che stanno provando tutti quelli che si indignano ad ascoltare questa polemica, e soprattutto le reazioni dei calciatori, questo sentimento possa diventare un sentimento comune tradotto attraverso. Ma l'abbiamo scoperto oggi che i calciatori guadagnano tanto, voglio dire. No, veramente io l'ho scoperto da tanto tempo, ed è per questo che mi sono appassionato a questo argomento, perché già da tanto tempo pensavo che andassero ridimensionati questi semidei, questi nuovi semidei, che devono dare anche loro una dimostrazione di solidarietà a una crisi dilagante. I nuovi semidei, sentiamo qualche ascoltatore. Si parla di calcio, insomma, di soldi. 800 24 0024. Domenico, Modena, buongiorno. Che buongiorno dice? A lei Milan e i suoi ospiti. Volevo semplicemente dire questo, diventa difficile oggi parlare serenamente di stipendi e di calcio in Italia quando gli stipendi sono abnormi. Se ovviamente pensi una società con diritto privato che paghi i suoi dipendenti come pagano, È andata via la linea, insomma, lei mi sembra favorevole a dire sono troppo alti, le dice Domenico. Sergio da Roma, buongiorno. Buongiorno, salve. Che dice? Io vorrei dire che mentre in linea di principio posso essere contrario con il fatto che i stipendi siano alti, sono completamente in disaccordo con la proposta di Calderoli. Perché innanzitutto le società private non sono regolate dallo Stato, in secondo luogo perché lo Stato non paga assolutamente gli stipendi ai calciatori, e poi una provocazione perché lo Stato, nel caso in cui venissero ridotti gli stipendi, avrebbe anche un minor gettito fiscale dai calciatori. È quello che si diceva, se Ronaldinho paga le tasse, guadagna 7 milioni e mezzo e le paga in Italia, io non lo so, ovviamente se guadagna 10 milioni ne paga di più, se guadagna 5 ne paga di meno, ma poi sono appunto accordi tra privati. Io posso capire, può fare scandalo, ma insomma, come ieri diceva un altro allenatore, Delio Rossi, se ce n'è uno che glieli offre, uno che li prende, è tutto nelle regole di mercato, questo è. Però sentiamo Walter, la provincia di Vercelli, buongiorno. Sì, buongiorno signor Milan, mi sente? Benissimo. Niente, io ho sentito parlare qualche esponente della Lega in seguito a questa proposta del ministro Calderoli che si indignano, sono indignati dagli stipendi dei calciatori, ma come dicevano poco fa gli altri ascoltatori, innanzitutto sono aziende private che possono pagare 10 milioni come 1 milione a seconda di quanto ritengono giusto. Io mi indignerei molto di più per gli stipendi che prende il buon Vespa che fa benissimo il suo lavoro, anche però quella, però, è un dipendente pubblico. Però anche quella, quindi... guardi che però Vespa, sì, non devo fare l'avvocato di Vespa, è uscito dalla RAI e ha fatto un contratto da consulente esterno, anche lui se prende quei soldi evidentemente porterà alla RAI perché, più di quanto prende. Vale. Forse perché porta in pubblicità più di quanto prende, probabilmente anche lì dovrebbe valere una legge di mercato. Può anche essere assolutamente d'accordo, se io spendo 10, ma mi fa guadagnare 15, sono d'accordo anche a pagare un politico. Il problema della politica sono invece i secondi, terzi, quadrupli incarichi che innanzitutto non permettono di fare in maniera ottimale il proprio lavoro, perché se sono in Parlamento non posso essere in provincia e se sono in provincia non posso essere in regione o in comune. E poi? Mi riferisco proprio agli esponenti della Lega. Il quadruplo incarico di Gianluca Buonanno, che ha fatto molto discutere, è stato ospite nostro, è stato ospite della Zanzara, ma ha sempre detto guadagno uno stipendio. Ed è vero, guadagno uno stipendio. Certo che però uno e quattrino, non lo so, è un po' difficile. Il traffico, poi voglio andare a capire anche da Matteo Salvini, perché tutto mi sembra una questione di tifo calcistico. Anche oggi la Russa parla al Corriere della Sera e dice la Lega è meschinella, e lo fa perché? No, perché è ministro, non è una questione politica, non è una questione di governo, perché lui tiene all'Inter e dice questa proposta è stata fatta contro l'Inter. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? E allora, detto che il 77% per ora di chi vota su Radio24.it è a favore di questa proposta, cioè il tetto stipendi nel mondo del calcio, oggi la Russa, in un'intervista al Corriere, Salvini, glielo dico visto che sta a Bruxelles, forse non l'ha ancora visto, la Lega è meschinella, è una proposta meschinella per attaccare l'Inter che vince, perché Calderoli ha detto se non possiamo intervenire sugli stipendi, interveniamo sul CIP 6, vale a dire gli incentivi per le fonti rinnovabili delle energie, quelle che prendono anche le raffinerie, il petroliere Moratti. Allora ditelo Salvini, a parte che è una norma anti-Inter, se si può facciamola domani, la votiamo, lei la vota perché è del Milan, io l'appoggio mediaticamente perché sono del Milan anch'io, però insomma a questo si riduce. Ma guardi, io sono tifoso e quindi nel nome del Milan soggiungerei a qualunque spesa e a qualunque spreco, e questo lo dico da tifoso. Però detto questo, una squadra che non ha un solo italiano in campo e che si può permettere di pagare stipendi con una parte di... perché su questo Calderoli ha ragione, non riguarda solo Moratti, riguarda tutti i presidenti petrolieri ad esempio, che hanno dei contributi pubblici. Cioè, che facciamo? Chi è petroliere non può stare nel calcio. No, ostacoliamo i petrolieri nel calcio. Non faccia quantomeno il santerellino, non dica ci metto io i soldi, perché se andiamo ogni volta che andiamo a farci un litro di benzina ringraziamo anche fra gli altri. Paghiamo tu. Ma io ritengo, ripeto, io sono rimasto al Milan di Gullit, Van Basten e Rijkaard. Ci sono cose più importanti di cui occuparsi che non il calcio, ovviamente, però ci sono tantissimi ragazzi per cui era e potrebbe essere un lavoro dei vivai ormai abbandonati. È chiaro che se la squadra che vince tutto ed è da modello in Italia ha 11 stranieri in campo, non è un bel segnale né dal punto di vista educativo né dal punto di vista sportivo né dal punto di vista economico. Questo è interessante. Renzo Olivieri, allora mi dica qualcosa di sinistra, lei che di sinistra lo è. Non ha mai fatto, anche Berlusconi insomma un po' di soldi ce li ha adesso, magari ultimamente ha dovuto vendere Kakà l'anno scorso, però no, perché qua insomma Moratti, il petrolieri, il calcio dei petrolieri, questo si vuole no. Ostacolare. A me pare che più di sinistra di me sia Calderoli, veramente, perché ha fatto un discorso da abbracciarlo, no? E fino a un certo punto, poi ripeto, ha tutti gli strumenti, è un ministro che faccia norme in questo senso. È chiaro che non si possano fare né norme per i calciatori, le norme si fanno in generale, abbia coraggio all'interno della sua maggioranza e le faccia, se no sono discorsi da bar questi, e li facciamo volentieri, perché quando ci scherziamo su, per cui voglio dire, se è di sinistra e nelle premesse c'è stato, che vada avanti e faccia norme, faccia leggi per mettere in atto quello che è questo sentimento di indignazione generale. Io credo che le leggi debbano interpretare anche quella che è l'indignazione generale, si fanno e vedrà che siamo tutti d'accordo. Ma la spina, io vorrei tornare, è vero che lei è interista? Sì, sono interista. Quindi lei è esultato per il triplete, ovviamente. Ecco, questa me la deve spiegare. Ho letto una sua dichiarazione. Lei dice: io ho esultato per la Coppa 5 minuti. Perché? È da secoli che non vincevate la Coppa. Sì, è da Sarti, Burnis, Vacchetti, Bedin, Guarneri, Picchi, da quella formazione che non vincevamo. E quindi erano 45 anni che aspettavo. E i primi 5 minuti ho gioito. Dopo 10 minuti ho sentito le dichiarazioni di Milito, che minacciava già di andare in un'altra squadra perché aveva offerte migliori. Mourinho si sapeva già che quasi aveva firmato il Real Madrid, Snyder lo stesso poteva seguire Mourinho, e mercenari, no? Voglio dire, qui siamo veramente a livello di mercenari puri. E quindi io credo che il messaggio che si dà anche ai giovani, se si continua a parlare di denaro, di giocatori strapagati, è un messaggio sbagliato, è un messaggio culturale e valoriale che va in senso opposto a quello che dovrebbe essere, cioè lo spirito sportivo. Io tra l'altro sono anche insegnante di educazione fisica e tutte queste cose cerco di insegnarle tutti i giorni ai ragazzi. Quindi la mia squadra del cuore, io sono d'accordo anche con Calderoli e con onorevole Salvini, non c'è un italiano, nemmeno l'allenatore è italiano. Adesso prendete Benitez, voi proprio gli italiani gli schifate, no? Non è per questo, è che quando si tifa una squadra si vorrebbe anche qualcuno, qualche italiano di fare una squadra straniera, perché non esiste un calciatore italiano come Materazzi che gioca per 2 minuti. Però insomma, se non vincete non va bene, se vincete non siete italiani. Io andiamo da Andrea da Vicenza. Andrea, buongiorno, che pensa? Buongiorno. Tra petrolieri italiani che non ci sono, l'Italia che parte per il Sudafrica. Certo. No, io volevo solo dire una cosa, che se vogliamo, come dice la Lega in generale, diciamo, no? fare le formichine, fare i risparmiatori, contribuire, perché non facciamo quell'operazione che ci avevano promesso di tagliare le province, dove si va veramente a risparmiare? Cioè, a me dà l'impressione, Andrea, che lei è classica buttata, ma lei è matto per non far parlare dei veri problemi, no? Lei, Andrea, è matto, che è un sovversivo, lo so, sono pazzo, lo so, però capisce che sentire stesso è impazzito, tagliare le province è impazzito. Vabbè. Comunque, Salvini c'è ancora? Sì, l'aeroporto di Bruxelles. Ma abbiamo un minuto. Salvini, allora, due notizie. La prima, l'Italia oggi parte, forse vi incrociate. No, non vi incrocerete in aeroporto. Dai, ci dica un bel Forza Italia, no, ma un bel Forza Azzurri ce lo dica, dai, su. Ma io gli faccio gli auguri, non mi appassionano questi mondiali, ti farò per la Corea del Nord, dove gli stipendi sono sicuramente contingentati per legge. Che matto, una dittatura la Corea del Nord. Sto scherzando, ovviamente. Dai, Forza Azzurri, ce lo dica! Ma se le fa piacere le dico Forza Azzurri, anche se poi io realmente penso Forza Milan e Forza Padania. Va bene, che avete vinto col Kurdistan, 1-0, campioni del mondo, delle nazionali senza nazione. Giocatori della nazionale padana hanno preso i soldi? No, totalmente gratis. Vabbè, una vacanza a Malta magari gliel'avete pagata, no? Senta, magari sarebbero stati a casa tranquilli. Lei sempre questo non lo sa, lo dice il Corriere della Sera, che ha fatto il sindaco di Verona Tosi, lo dice il Corriere, multato perché andava a 190 km orari sull'auto di servizio, ha presentato richiesta di revoca del provvedimento perché dice le auto blu sono esentate se la velocità è superata per ragioni di sicurezza o istituto. È una notizia così, tre righe. Se è così, la accerti e dica a Tosi che ha sbagliato. Io stimo tantissimo Flavio Tosi e conto che non sia così. Io ho appena preso una multa per divieto di sosta per lavaggio strade e mi sono pagato i miei 70 euro. Le ha pagati. Grazie, buon viaggio. Roberto Malaspina, Forza Azzurri, lei ce lo dice? Forza Azzurri, certamente. Vabbè, l'Italia vinca. Tifa Italia. Vabbè. Viva l'Italia. Oh, bello, bene, bravo. A Olivieri non glielo chiedo, no? Forza Azzurri e Forza Lippi. E Forza Lippi, va bene. Grazie a tutti per essere stati con noi. Sara Spreficco in redazione, Peter Bescapè in regia. E allora do la linea a Oscar Giannino. Potete scriverci bianco o nero e radio24.it. Ci troviamo domattina 7.30.